Terzo anello ad alta voce. Il processo di Franz Kafka. Il custode allora ha ingannato l'uomo, disse subito K, vivamente interessato alla storia. Non essere precipitoso, disse il sacerdote. Non accettare il parere degli altri senza averlo prima verificato. Ti ho raccontato la storia secondo la lettera della scrittura. Di inganno non si parla. Ma è evidente, disse K. E la tua prima interpretazione era giustissima. Il custode ha fatto la dichiarazione rivelatrice solo quando essa non poteva più giovare a quell'uomo. Prima nessuno gli aveva chiesto niente, disse il sacerdote. Pensa anche che era un semplice custode e che come tale ha fatto il suo dovere. Perché credi che abbia fatto il suo dovere? Chiese K. Non l'ha fatto. Il suo dovere forse era di respingere tutti gli estranei, ma avrebbe dovuto far entrare quell'uomo cui l'ingresso era destinato. Non rispetti abbastanza la scrittura e modifichi la storia, disse il sacerdote. Sull'accesso alla legge, la storia contiene due importanti dichiarazioni del custode. Una all'inizio, una alla fine. Il primo passo dice che lui per il momento non può consentirgli l'accesso. E l'altro, questo ingresso era destinato solo a te. Se queste due dichiarazioni fossero in contrasto, avresti ragione. E il custode avrebbe ingannato l'uomo. Ma non c'è contrasto. All'opposto, la prima dichiarazione allude persino all'altra. Si potrebbe quasi dire che il custode trasgredì al suo dovere, facendo intravedere all'uomo, nel futuro, una possibilità di accesso. Sembra che il suo dovere a quel tempo fosse soltanto di respingere l'uomo. E in realtà, molti interpreti della scrittura si meravigliano che il custode abbia fatto quell'allusione, perché egli sembra amare la precisione ed esercita con rigore il suo ufficio. Per molti anni non abbandona il suo posto e chiude la porta solo all'ultimo momento. Egli è pienamente consapevole dell'importanza del suo servizio, perché dice: «Io sono potente». Egli ha profondo rispetto per i superiori, perché dice: «Io sono solo l'ultimo dei custodi». Egli non è un chiacchierone, perché in tutti quegli anni pone solo, come è scritto, domande indifferenti. Egli non è corruttibile, perché dice a proposito di un regalo: lo prendo soltanto perché tu non creda di avere trascurato qualcosa. Quando si tratta di adempimento del dovere, egli non si lascia commuovere né esasperare, perché dell'uomo è scritto: stanca il custode con le sue preghiere. E infine anche il suo aspetto esteriore rivela un carattere pedante, il grande naso aguzzo e la lunga, rada, scura barba tartara. Può esserci un custode più scrupoloso? Ma nel custode si mescolano anche altri tratti molto favorevoli a colui che chiede accesso, e che fanno comunque capire come in quella allusione a una possibilità nel futuro sia andato un poco oltre il suo dovere. Non si può negare che sia un po' semplice, e di conseguenza un po' presuntuoso. Anche se le sue dichiarazioni sulla sua potenza e sulla potenza degli altri custodi e sulla loro vista insostenibile anche per lui, anche se tutte queste dichiarazioni in sé possono essere giuste, il modo, tuttavia, in cui fa queste dichiarazioni rivela che la sua comprensione è turbata da semplicità e superbia. Gli interpreti dicono a questo punto: la giusta comprensione di una cosa e l'incomprensione della stessa cosa non si escludono del tutto. Ma in ogni modo bisogna ammettere che quella semplicità e quella superbia, anche se forse si manifestano in misura minima, indeboliscono la sorveglianza dell'ingresso. Sono brecce nel carattere del custode. Si aggiunga che il custode sembra cordiale per disposizione naturale. Non sempre è soltanto un impiegato. Subito al principio fa lo scherzo di invitare l'uomo ad entrare, nonostante il divieto espresso con chiarezza. Poi non lo manda via, ma gli dà, come scritto, uno sgabello e lo fa sedere a un lato della porta. Thank you. La pazienza con cui il custode sopporta durante tutti quegli anni le preghiere dell'uomo, i piccoli interrogatori, l'accettazione dei regali, la compostezza con cui lascia che l'uomo vicino a lui maledica ad alta voce il caso disgraziato che ha collocato lì il custode. Tutto ciò lascia intuire moti di pietà. Non tutti i custodi avrebbero agito così. E alla fine basta un cenno perché si chini profondamente sull'uomo, perché gli renda possibile l'ultima domanda. Solo una lieve impazienza, il custode sa che tutto è finito, trapela dalle parole «sei insaziabile». In questo tipo di commento c'è chi va ancora più oltre e ritiene che le parole «sei insaziabile» esprimano una specie di amichevole ammirazione, per quanto non priva di condiscendenza. In ogni modo la figura del custode si presenta diversa da quella che tu credi. «Tu conosci la storia meglio di me, e da molto», disse K. Rimasero un po' in silenzio. Poi K disse: «Dunque tu credi che l'uomo non fu ingannato?» «Non fraintendermi», disse il sacerdote. «Io ti espongo solo le opinioni che ci sono al riguardo. Non devi dare troppa importanza alle opinioni. La scrittura è immutabile e le opinioni esprimono spesso soltanto la disperazione che essa provoca. Nel nostro caso esiste persino un'opinione secondo la quale l'ingannato è proprio il custode». «È un'opinione azzardata», disse K. «Su cosa si fonda?» «Il fondamento», rispose il sacerdote, «lo trovano nella semplicità del custode. Si dice che lui non conosce l'interno della legge, ma soltanto il tratto che deve continuare a percorrere davanti alla porta. Le idee che ha dell'interno sono considerate puerili e si presume che egli stesso abbia paura delle cose con cui vuole fare paura all'uomo. Sì, lui ne ha più paura dell'uomo, perché questi vuole solo entrare. Persino dopo che ha sentito dei terribili custodi dell'interno, mentre il custode non vuole entrare, o almeno non ne sa niente. Altri, è vero, dicono che deve essere già stato nell'interno, perché una volta fu pure assunto al servizio della legge, e questo può essere avvenuto soltanto nell'interno. A ciò bisogna rispondere che poteva anche essere stato nominato custode con parole gridate dall'interno, e che in ogni caso non si sarebbe potuto spingere molto nell'interno, poiché non può più neppure sostenere la vista del terzo custode. Inoltre non si dice neppure che durante tutti quegli anni abbia raccontato niente dell'interno, a parte l'osservazione sui custodi. Poteva essergli proibito, ma neppure della proibizione ha mai raccontato niente. Da tutto ciò si deduce che egli non sa niente sull'aspetto e sul significato dell'interno, e che si inganna. Ma deve ingannarsi anche sull'uomo di campagna, perché è sottoposto a quest'uomo e non lo sa. Che tratti l'uomo come un sottoposto appare evidente da molte cose che dovresti ancora ricordare. Che sia però lui di fatto sottoposto a quello deve apparire, secondo questa opinione, altrettanto evidente. Anzitutto chi è libero è superiore a chi è legato. Quell'uomo in realtà è libero, può andare dove vuole. Proibito gli è solo l'accesso alla legge, e per di più da una sola persona, dal custode. Se si siede sullo sgabello di fianco alla porta e rimane lì tutta la vita, lo fa di sua volontà. La storia non parla di nessuna costrizione. Il custode invece è legato al suo posto dalle sue mansioni. Non si può allontanare verso l'esterno, ma secondo ogni apparenza non può andare nell'interno neppure se volesse. Inoltre è sì al servizio della legge, ma serve solo per quell'ingresso. Dunque solo per quell'uomo al quale quell'entrata è esclusivamente destinata. Anche per questa ragione gli è sottoposto. Bisogna supporre che per molti anni, per tutta una vita, abbia prestato soltanto in certo qual modo un servizio a vuoto, perché è detto che arriva un uomo, una persona, dunque adulta, che il custode, dunque, dovette aspettare a lungo, prima che il suo scopo si adempisse. Dovette cioè aspettare quanto piacque all'uomo, che invece veniva senza costrizione. Ma anche la fine del servizio è determinata dalla fine della vita dell'uomo. Dunque egli rimane sottoposto a questo sino alla fine. E sempre viene sottolineato che il custode sembra non sapere niente di tutto ciò. Ma in questo non si vede niente di strano, perché secondo tale opinione il custode si inganna molto più gravemente per quanto riguarda il suo servizio. Alla fine, infatti, parla dell'ingresso e dice: ora vado a chiuderlo, mentre in principio è detto che la porta della legge è aperta come sempre, ma se è sempre aperta, sempre, indipendentemente dalla durata della vita dell'uomo cui è destinata, neppure il custode la potrà chiudere. Le opinioni a riguardo divergono. Non si sa se il custode, annunciando che chiuderà la porta, vuole dare soltanto una risposta o sottolineare il suo dovere o infondere all'uomo, proprio all'ultimo momento, rimorso e afflizione. Ma su questo punto molti sono concordi nell'affermare che egli non potrà chiudere la porta. Essi credono persino che almeno alla fine egli sia sottoposto all'uomo anche nel suo sapere. Questi, infatti, vede lo splendore che rompe dalla porta della legge, mentre il custode, come tale, volge le spalle all'ingresso e non dà a vedere in nessun modo di aver notato un cambiamento. «Sono delle buone ragioni», disse K, che aveva ripetuto tra sé a mezza voce passi della spiegazione del sacerdote. «Sono delle buone ragioni. E anch'io adesso credo che ad essere ingannato sia il custode. Ma questo non mi fa abbandonare l'opinione di prima, perché entrambe vengono in parte a coincidere. Che il custode veda chiaro o sia ingannato poco importa. Avevo detto che ingannato è l'uomo. Se il custode vede chiaro, uno potrebbe dubitarne. Se invece è ingannato il custode, il suo inganno si trasferisce di necessità sull'uomo. In questo caso il custode non è un ingannatore, ma un ingenuo, al punto che dovrebbe venire subito scacciato dal servizio. Devi considerare che l'inganno in cui è caduto il custode non gli nuoce, mentre nuoce moltissimo all'uomo. Qui urti in un'opinione contraria, disse il sacerdote. Alcuni dicono che la storia non dà a nessuno il diritto di giudicare il custode. Qualunque sia l'impressione che produce su di noi, è pur sempre un servitore della legge. Appartiene dunque alla legge, è dunque sottratto al giudizio umano. Non si deve allora neppure credere che il custode sia sottoposto a quell'uomo. Anche se il suo servizio lo lega all'ingresso della legge, questo significa infinitamente più che vivere libero nel mondo. L'uomo arriva alla legge. Il custode è già là. È stato assunto in servizio dalla legge. Dubitare della sua dignità significherebbe dubitare della legge. Non condivido questa opinione, disse K, scuotendo il capo. Perché se uno la accetta, deve prendere per vero tutto quello che dice il custode. Che questo però non sia possibile, sei stato tu a dimostrarlo con larghezza. No, disse il sacerdote. Non bisogna prendere tutto per vero. Bisogna solo prenderlo per necessario. Malinconica opinione, disse K. Della menzogna si fa una regola universale. Detto questo, si interruppe. Gli venne in mente che aveva parlato e giudicato di una leggenda. Non conosceva la scrittura da cui era stata tratta quella leggenda. E altrettanto sconosciute gliene erano le interpretazioni. Era stato attratto in un ragionamento a lui del tutto sconosciuto. Il sacerdote era dunque anche lui come tutti gli altri? Voleva parlare della causa di K solo per allusioni, magari sedurlo in questo modo e alla fine tacere? Con tali riflessioni K aveva dimenticato la lampada. Questa cominciò a fumare e K se ne rese conto solo quando il fumo gli lambì il mento. Allora, girando la vite, cercò di abbassare lo stoppino e questo si spense. Rimase immobile. Era buio fitto. Non sapeva in quale parte della chiesa si trovasse. Visto anche che vicino a lui tutto era silenzio, chiese: «Dove sei?» «Qui», disse il sacerdote prendendo K per la mano. «Vieni, ti porto nella sacrestia. Là c'è un lume». Per K fu un grande sollievo poter lasciare il Duomo vero e proprio. Quello spazio alto, ampio, lo opprimeva. Già più volte, sapendo che era inutile, aveva guardato verso l'alto e da ogni parte gli era spirata contro, per così dire, solo oscurità. Tenuto per mano dal sacerdote, si affrettava dietro di lui. Nella sagrestia ardeva una lampada ancora più piccola di quella che teneva K. Per giunta era appesa tanto bassa che quasi illuminava solo il pavimento della sagrestia, la quale era stretta ma alta, probabilmente quanto il Duomo. «È così buio dappertutto», disse K, e mise la mano sugli occhi, quasi gli dolessero per lo sforzo di orientarsi. K aveva concluso: «Della menzogna si fa una regola universale». Ma questo non era il suo giudizio definitivo. Era troppo stanco per poter avere una visione generale di tutti i corollari della storia. E questa, inoltre, lo conduceva verso riflessioni insolite, verso cose irreali, più adatte ad essere discusse nell'ambiente dei funzionari del tribunale che da lui. Quella semplice storia era diventata confusa. Voleva sbarazzarsene. E il sacerdote, che ora mostrava una grande delicatezza, lo tollerò e accettò in silenzio la considerazione di K, sebbene questa non coincidesse certo con la sua opinione. Continuarono a camminare un poco senza parlare. K si teneva stretto al sacerdote, senza sapere dove si trovava. La lampada che teneva in mano si era spenta da un pezzo. Proprio davanti a lui, a un certo punto, la statua d'argento di un santo luccicò con il solo riflesso dell'argento e subito svanì nuovamente nel buio. Per non rimanere del tutto in balia del sacerdote, K chiese: «Adesso non siamo vicini all'ingresso principale?» «No», disse il sacerdote, «ne siamo molto distanti. Vuoi già andartene?» Sebbene K in quel momento non ci avesse pensato, disse subito: «Certo, devo andarmene. Sono procuratore di una banca, mi aspettano. Sono venuto qui solo per mostrare il Duomo a un corrispondente straniero». «Allora», disse il sacerdote porgendo la mano a K, «allora va. Ma al buio da solo non mi ritrovo», disse K. «Arriva al muro di sinistra», disse il sacerdote. «Continua lungo il muro, non abbandonarlo mai. Troverai un'uscita». Il sacerdote si era appena allontanato di qualche passo quando K gridò a piena voce: «Aspetta un po', per favore!» «Aspetto», disse il sacerdote. «Non vuoi più niente da me?» chiese K. «No», disse il sacerdote. «Prima sei stato così gentile con me», disse K. «Mi hai spiegato tutto. Ma ora mi mandi via come se non ti importasse niente di me». «Ma non devi andare», disse il sacerdote. «Ma sì», disse K. «Cerca di capirlo. Cerca prima tu di capire chi sono io», disse il sacerdote. «Tu sei il cappellano delle carceri», disse K avvicinandosi al sacerdote. Il suo pronto ritorno in banca non era più così necessario come lo aveva presentato. Poteva rimanere ancora lì con tutto comodo. «Io faccio parte dunque del tribunale», disse il sacerdote. «Perché dovrei volere qualcosa da te? Il tribunale non vuole niente da te. Esso ti accoglie quando vieni e ti lascia andare quando vai». Thank you.